Ma il contenuto è molto semplice. L'emendamento prevede da un lato una razionalizzazione del sistema, tant'è che elimina una serie di imposte che hanno, seppur in modo disordinato, carattere patrimoniale, dall'IMU sulla seconda casa, l'imposta di bollo sui depositi, sui titoli, la famosa imposta Monti, un'imposta dello 0,2 uguale per tutti a prescindere dalla quantità di risorse disponibili. Dall'altro invece introduce una serie di aliquote a partire dallo 0,2 per i patrimoni superiori ai 500.000 euro per arrivare progressivamente a una posizione ben più significativa, addirittura un 3%, in questo caso straordinario, perché le altre invece sono ordinarie, sui patrimoni superiori al miliardo. A ben guardarlo è un emendamento che, come si vede, ha una fortissima progressività e comincia ad essere significativo sia per il gettito sia per quanto richiede su patrimoni che sono superiori ai 5-10 milioni di euro. Dunque, dal nostro punto di vista, un emendamento in cui il contenuto è quello dell'equità, della redistribuzione, della giustizia sociale. Una misura sulla scia di quanto contenuto nella manovra economica spagnola del governo Sanchez. Sulla scia di quella scelta, naturalmente, ma sulla scia di una discussione che, per la verità, nel resto del mondo, d'Europa, va avanti da molti anni senza destare mai nessuno scandalo. Segnalo che nel luglio di quest'anno Forbes ha pubblicato la lettera di oltre 83 super milionari, miliardari potremmo dire, che chiedono ai loro paesi di introdurre forme di tassazione stabili e significative su di loro, dichiarando una cosa molto semplice: non possiamo fare molto anche rispetto a quello che sta accadendo, però abbiamo molti soldi che sono utili a risolvere molti dei problemi, chiedetecene un po' di più. Anche perché questo, io credo, perfino i super ricchi cominciano a rendersi conto del fatto che la crescita ormai irrefrenabile della diseguaglianza rischia di diventare un elemento problematico perfino per loro, e perché vengano tutelate le loro condizioni di obiettivo privilegio. In queste ore anche all'interno della maggioranza si sono lette dichiarazioni che paventavano una fuga di capitali all'estero, oppure che questa norma avrebbe colpito i commercianti, le imprese, chi crea lavoro in Italia. Sono argomentazioni che non reggono? Ma guarda, siamo, se posso dirla così, alle solite. Ci sono tre tipi di obiezioni che si rincorrono. Una è quella tipica della destra: rapinate gli italiani. Giorgio Mulea ha addirittura dichiarato in modo un po' teatrale che vorremmo colpire l'80% degli italiani e rapinare le loro piccole fortune. Io credo che sia l'80% degli italiani intesi come persone fisiche, perché badate, il nostro emendamento interviene su questo. Per capirsi, se una coppia sposata che ha lavorato tutta una vita a 500.000 da parte tra casa e titoli non paga assolutamente niente, perché anzi anche 600.000, perché anche 700.000, perché viene divisa per due. Stiamo parlando di persone fisiche. Se l'80% delle persone fisiche, degli individui di questo paese, avesse più di 500.000 da parte, staremmo molto bene. Quindi prima argomentazione, quella della destra. Poi c'è l'argomentazione di chi dice mai più tasse, le tasse vanno solo abbassate. Ma questo è il segno della subalternità culturale di tanta parte della scena politica, anche dall'altro lato, nei confronti della cultura della destra. Le tasse certo che vanno abbassate alla maggioranza che le paga troppe, anche alla piccola impresa, vanno abbassate al mondo del lavoro, vanno forse alzate a chi ha tantissimo in questi anni ha pagato un po' meno, in modo ragionevole, senza nessun intento punitivo o vendicativo, ma con un intento solidaristico. Poi c'è l'obiezione, ancora una volta, più tecnica, che dice non funziona, li scappano. Benissimo, io sono per discutere. Noi poniamo una grande questione, abbiamo formulato un'ipotesi, perché ogni tanto serve anche una proposta concreta. Se qualcuno mi dice che c'è una formula migliore, sono pronto a discutere. Se il tema è sempre non si può fare o è addirittura pericoloso, lo trovo un argomento sbagliato e inefficace. Che gettito produrrebbe questo emendamento? Ma il gettito è molto difficile da definire in modo certo, per alcune ragioni. La prima tra queste è che l'Italia è un paese nel quale non esiste un'anagrafe patrimoniale, questione che peraltro noi invece introduciamo con il nostro emendamento. Per dirla anche qui in parole semplici, non si sa quanto è il patrimonio dei singoli cittadini in questo paese, è difficile recuperarlo. Ci sono alcune categorie, pochissime per la verità, una di queste sono una volta tanto i politici, i cosiddetti parlamentari, per esempio, che sono obbligati ogni anno a rendere nota, noi lo facciamo tutto della Camera, la nostra condizione patrimoniale. Io credo che sia giusto, perché credo che sia un elemento che aiuterebbe a combattere l'evasione, ma anche un elemento di trasparenza nella raccolta dei dati. In Italia questo strumento non c'è, quindi una stima precisa è assai complicata. Noi però riteniamo ragionevole che nell'equilibrio che c'è tra le risorse perse a seguito dell'eliminazione di una serie di imposte micropatrimoniali o appunto di patrimoniali disordinate e l'introduzione però molto progressiva sui patrimoni molto alti, questo emendamento possa produrre un extragettito di diversi miliardi di euro. Perché in Italia ci sono resistenze di questo tipo e l'argomento patrimoniale sembra essere tabù? Ripeto, è un tabù che ha a che fare con una lunga stagione subalternità culturale. Da un lato l'idea che la proprietà, il patrimonio, sia da un lato intoccabile, dall'altro sempre solo il frutto di una vita di sacrifici e di risparmi. Per carità, lungi da me voler negare questa possibilità o la legittimità di mettere da parte risparmi e ricchezze appunto dopo una vita di lavoro. Ma il punto è che non c'è su questo un'analisi obiettiva di quello che è accaduto. Cioè del fatto che in questi anni, anche negli anni più recenti, anche durante la pandemia, come avviene in ogni grande crisi, la forbice della diseguaglianza è aumentata a dismisura. Ora io credo che in un paese come questo, in cui la diseguaglianza raggiunge questi picchi, in cui l'evasione e l'illusione raggiungono queste enormi dimensioni, introdurre questa discussione e farla uscire, diciamo, dall'urlo quotidiano di una demagogia un po' stantia sarebbe soltanto una questione di buon senso.